Buonasera a tutti, grazie per essere venuti a questo incontro quasi clandestino perché è stato, chiediamo scusa a tutte le ambasciate che non sono state invitate, l'ambasciatore del Cile ci ha fatto la cortesia di venire anche senza invito. Abbiamo con noi collegate via Skype Francesca Lesa e Mirta Gianse, Francesca dall'Argentina e Mirta dell'Uruguay. Nulla, questa è la prima cosa pubblica che facciamo sulla sentenza, sulla motivazione della sentenza che è uscita da poco e che ancora non tutti hanno letto e che comunque è una bella sentenza. Vediamo gli amici come ci aiuteranno a capirla meglio. Io volevo appunto dare la parola all'ambasciatore del Cile per un breve saluto, perché così dopo rimane libero. Grazie mille, ma no, ho saputo oggi, ieri, di questo incontro e sono contentissimo di essere ancora una volta con voi e soprattutto penso sempre nei familiari dei detenuti desapareciti in Cile, Argentina, Uruguay, Brasile, Bolivia e altri paesi in America Centrale, perché la giustizia finalmente arriva. Da noi, nel caso del Cile, conosco meglio. Ci abbiamo più di 60 militari che sono in galera, generali, colonnelli e altri ufficiali che saranno per sempre. Hanno iniziato a morire in carcere. Adesso c'è un movimento dei settori della destra che chiedono la liberazione di loro, eccetera, eccetera, ma mi sembra molto difficile che se loro ancora sanno cose e non hanno mai parlato. Non saranno liberati, penso, aspetto, perché giustizia è conoscere la verità. E ancora ci sono familiari che cercano i resti delle sue persone, familiari, eccetera. Grazie per questa opportunità e complimenti a tutti voi. Faceva cenno l'ambasciatore Fernando Ayala ai familiari che cercano i resti e dei suoi cari. In questi giorni, di recente, sono stati trovati i resti di Juan Montillo. I funerali saranno il 7 maggio. È una cosa molto importante e in un certo senso una conferma della sentenza, poiché per il caso Montiglio è stato condannato il capitano Ahumada Valderrama. Una cosa molto importante che è accaduta poche settimane fa. Niente, allora io darei la parola per il primo analisi sulla sentenza all'Avvocato dello Stato Maurizio Greco. Avvocato dello Stato che ha rappresentato la Presidenza del Consiglio dei Ministri in questo processo. Dicevo, vi ringrazio della possibilità di avermi dato l'occasione per poter parlare brevemente sulla scorta di quella che è sostanzialmente stata la statuizione del giudice penale su questa tragica vicenda che ha interessato molti cittadini residenti appunto all'estero. Io devo dire che solitamente c'è la frase fatta, dice le sentenze, commentare le sentenze è difficile e il miglior commento è o la esecuzione della sentenza o l'impugnazione della sentenza, nell'ipotesi in cui un soggetto abbia qualche cosa da dire avverso la sentenza stessa. Debbo in questa sede però, indipendentemente dal merito, di alcuni, passaggi della sentenza, che l'impianto della stessa a me pare obiettivamente sostanzialmente corretto. È un passo avanti della giustizia italiana, un importantissimo passo avanti della giustizia italiana. Non ci dimentichiamo che ci sono stati 8 ergastoli e non ci dimentichiamo che ci sono state delle pronunce di prescrizione, che ricordo a tutti che la prescrizione non è una pronuncia assolutoria nel merito, ma sostanzialmente interviene nel nostro sistema giuridico solo ed esclusivamente perché c'è un decorso del tempo, quindi è passato così tanto tempo dai fatti che la pretesa punitiva dello Stato sostanzialmente viene meno. E quindi indirettamente, o meglio, direttamente è un accertamento positivo che quei fatti sono avvenuti e che quei fatti costituiscono reato. Quindi anche dove noi vediamo una statuizione di prescrizione è un momento importante sempre nell'ambito di quella che era l'affermazione della ipotesi accusatoria sia pubblica che appunto privata ed una conferma alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Quindi devo dire che l'impianto generale della sentenza a mio parere non è sostanzialmente criticabile e io lo trovo sostanzialmente corretto, anche perché, ribadisco, è un grossissimo passo avanti in quella che è l'accertamento della verità per fatti. Non ci dimentichiamo che qui l'accusa ha dovuto portare avanti, e in questo io devo spezzare una lancia appunto a favore di chi ha sostenuto l'accusa, perché stiamo parlando di fatti remoti, stiamo parlando di fatti avvenuti fuori del nostro territorio, quindi stiamo parlando di una ricerca di prove ed una offerta di prove che ha scontato il decorso del tempo e la lontananza, quindi con delle difficoltà oggettive per l'accusa, appunto perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo un sistema giurisdizionale in cui è l'accusa che deve all'onere di provare appunto la fondatezza di quelle che sono le tesi che rappresenta, e quindi non è che siamo in un processo storico, qui siamo in un processo in cui si debbono dimostrare fatti concreti e bisogna dare la prova concreta che quei fatti sono avvenuti e sono riconducibili alla responsabilità di quel determinato soggetto. Quindi, se appunto, come dicevo prima, teniamo conto del dato temporale e del dato locale della distanza, io devo dire che dobbiamo spezzare una lancia a favore dell'accusa, che sicuramente ha affrontato un compito che era assolutamente improbo, accusa che appunto ha trovato conferma, come dicevo prima, in 8 ergastoli e in svariate pronunce di prescrizione. Quindi sotto questo aspetto devo dire che la sentenza ha sostanzialmente confermato quasi tutte quante le ipotesi accusatorie. Quindi non è, come dicevo prima, una sentenza sostanzialmente sbagliata, una sentenza che sostanzialmente si presta a critiche. A questo proposito, appunto, è ovvio che noi come accusa privata, insieme alle altre parti private e insieme alla pubblica accusa, valuteremo se ci sono degli elementi in fatto e in diritto per poter cercare di postulare al giudice di appello elementi che in qualche maniera non sono stati ben evidenziati nel corso del giudizio di primo grado. È ovvio che questo è un compito, ripeto, dell'accusa pubblica e dell'accusa privata. Nell'ambito del gioco delle parti, i difensori cercano di mostrare l'assenza di responsabilità dei propri assistiti. Siamo noi che dobbiamo appunto fornire, sulla scorta del quadro probatorio che oramai è cristallizzato, perché qui io penso che una riapertura del procedimento con l'escussione di nuovi testi la vedo estremamente difficile, e anche sotto questo aspetto lo riterrei superfluo una richiesta di riapertura del dibattimento, perché io credo che oramai sostanzialmente tutto quello che era il materiale probatorio necessario affinché un giudice potesse vagliare i fatti e potesse appunto vagliare la fondatezza delle accuse c'è ed è già appunto stato versato agli atti. Quindi ritengo che sia compito a questo punto nostro valutare se ci sono degli aspetti della sentenza che non reggono ad un corretto vaglio tecnico critico, ripeto, e sotto questo aspetto valutare quindi se possiamo portare all'attenzione del giudice di secondo grado la nostra prospettazione e la nostra ipotesi accusatoria nei confronti di coloro i quali appunto sono stati nell'ambito del procedimento di primo grado assolti. Questo ritengo sia il nostro compito e questo ritengo che sia appunto la prospettiva con cui dobbiamo sostanzialmente guardare a questa decisione. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Grazie. Ringrazio l'avvocato Greco che oltre che essere preciso è stato anche conciso. Volevo chiedere a Nadia Angelucci, che è stata di recente rientrata dal Cono Sud, che ci dica quale impressioni ha avuto, se ha parlato con dei familiari, si è incontrato dei giuristi, che cosa si dice laggiù nell'America Latina. Allora, aiuto. Buonasera a tutti. Grazie, insomma, Jorge, per avermi invitato. Oltre a essere un incontro clandestino, io sono anche un'infiltrata, diciamo, perché qui sono tutti quanti avvocati, giuristi, insomma, io sono una giornalista, quindi non ho, diciamo, questa visione. Ho letto la sentenza appena uscita perché mi trovavo proprio a Montevideo, mi ha accolto lì e quindi mi ha rubato anche l'ultimo pomeriggio che avevo pensato di dedicare ad altre cose, comunque. E l'ho letta lì e l'ho letta con gli occhi, diciamo, degli occhi completamente diversi, che non sono degli occhi appunto tecnici, quindi non mi stupisco in qualche modo che l'avvocato Greco dica che sia un passo avanti, capisco perfettamente perché comprendo, però comprendo anche che tutte quelle assoluzioni che ci sono state, che sono state 19 assoluzioni e in particolare le 13 che hanno riguardato l'Uruguay, e in qualche modo abbiano diciamo pesato poi alla fine nella valutazione, soprattutto che i familiari hanno fatto di questa sentenza. E io vi dico, ho seguito questo processo, questa cosa insomma non sono mai riuscita a dirla nei vari incontri che abbiamo fatto durante questi 2 anni, però insomma ci tenevo in qualche modo, almeno in questa occasione che forse diciamo è l'ultima, ad esplicitarlo. Ho seguito questo processo perché più di 10 anni fa, nel 2005, io ho avuto 10 anni fa, ho avuto modo di conoscere una persona che si chiamava Luz Ibarburu, che è una delle madri, è una delle donne, delle 5 donne che hanno iniziato questo processo, che nel 1999 sono andate davanti a Capaldo e hanno fatto questa denuncia per questi desaparecidos di origine italiana. Suo figlio si chiamava Juan Pablo Recagno, credo che sia difeso tra l'altro dall'avvocato Salerni, parte civile del fratello, e insomma diciamo che l'incontro con lei è stato per me dal punto di vista personale molto importante, non vi vado a raccontare questo, però un anno dopo averla conosciuta lei è morta. E quando io sono poi tornata in Italia e mi sono resa conto che iniziava questo processo, per me è stato diciamo quasi un tutt'uno. Ho iniziato dicendo: io andrò perché qualcuno ci deve essere lì a essere presente, a vedere che cosa accade. Quindi questo è stato un po'. E poi è nata una collaborazione con un quotidiano uruguaiano e quindi diciamo c'è stata una copertura giornalistica di tutto il processo. Cosa succede in Uruguay in questo momento? Io mi occupo soprattutto di questo, la sentenza l'ho vista tutta. La mia impressione, io non avevo mai letto una sentenza, quindi vi posso dare delle impressioni proprio da sì, esatto, ma proprio da mondo delle favole, nel senso che non mi aspettavo che fosse scritta così, che in realtà per chi di voi insomma ha voglia di leggerla, e la trovate sul sito 24marzo.it, è una lunga ricostruzione storica di quello che è avvenuto, quindi è proprio come leggere una storia, un romanzo, e supportato da tutte quelle testimonianze che sono state portate nei 2 anni del processo. A me hanno colpito molto alcune cose della sentenza, perché ho ritrovato nella parte scritta dai giudici alcune testimonianze che erano quelle che avevano colpito anche me e che avevo riportato nelle mie cronache, quindi credo che sia incredibile, adesso qui non c'è Aurora Meloni con noi, però il fatto che la giudice ricordi una cosa che in realtà è, diciamo, forse dal punto di vista probatorio è irrilevante, però umanamente è incredibile, che è questo ultimo sguardo che Aurora dice che si è data con suo marito prima che lo portassero via, e questo è riportato nella sentenza, è riportato l'ultimo sguardo. E, una serie, insomma, di testimonianze che sostengono, insomma, tutta questa storia. Nella sentenza poi dopo la Corte ha, diciamo, esplicita quali sono gli elementi su cui si fonda l'accusa, esplicita anche perché non ritiene di prenderli in considerazione rispetto, poi si entra nei dettagli tecnici e lì, insomma, poi ognuno di voi se la vedrà. E, io non, insomma, non voglio parlare molto, sono stata in Uruguay, ho avuto modo di incontrare Mirta e Ghianze, abbiamo fatto una lunga chiacchierata e credo che lei, insomma, vi dirà quello che pensa, perché poi ha avuto noi ci siamo viste prima che uscisse la sentenza, e però poi dopo lei ha avuto modo di leggerla, quindi dal punto di vista tecnico è la persona che ha portato avanti le accuse contro tutte le persone praticamente che erano imputate in questo processo. Colpisce molto in Uruguay che cosa? Da una parte che persone che lì sono state condannate, e come tutto, diciamo, il gruppo di Automotore Sorletti, adesso chi ha seguito il processo forse mi potrà seguire, altri no, però sono persone che lì sono state condannate, qui sono state assolte. E quindi su quello io, appunto, non sono un avvocato, non sono una giurista, non riesco a comprendere qual è la diversa valutazione che può essere stata fatta, ma probabilmente sono anche sistemi giuridici differenti, quindi non entro in questo. E poi c'è tutta la vicenda Troccoli, che è una vicenda che riguarda l'Uruguay, ma che evidentemente riguarda anche noi molto da vicino, perché, e questo io è una cosa che ripeto sempre, Jorge Néstor Troccoli è un cittadino italiano che vive sul territorio italiano e che è accusato di moltissime cose. Quello che mi colpisce della sentenza su Troccoli, e lo rimando a voi perché sicuramente l'avete letta, è che per esempio la Corte giudica molto debole la sua linea difensiva, e lo dice proprio, però a fronte di questo comunque non diciamo si spinge. Io non riesco a capire se è una questione di coraggio della Corte o se proprio c'è una cosa tecnica, quindi questo veramente lo rimando a voi. Però credo che il tema di Troccoli sia un tema importante da lavorare proprio tra i due paesi, cioè tra Italia e Uruguay, perché è un tema che riguarda in maniera forte entrambi i paesi. E, non so se poi dopo magari con, diciamo, gli spunti che prenderemo ci sarà modo di dire altre cose. Una piccola cosa però voglio dirla prima di chiudere. E, si è parlato molto, appunto, di processo storico. Qualcuno, ovviamente, dei difensori ha parlato anche di inutilità di questo processo. E, in sede di come si chiamano, allegados finales, si dice in spagnolo, di conclusioni, e l'avvocato Guzzo, che è l'avvocato che difendeva proprio Troccoli, ha detto che questo processo è stato inutile e che si sono sprecati dei soldi dei contribuenti italiani e che è stato inutile portare questi testimoni qui e, insomma, una serie di cose. Al di là delle valutazioni che ognuno di noi personalmente può fare su affermazioni di questo tipo, io credo invece che sia importante ricordare dei fatti che stanno accadendo ora, in particolare in Uruguay, in parte anche in Argentina, e che sono legati a questa vicenda dei diritti umani. In Uruguay, poco tempo fa, diciamo forse un mese e mezzo fa, gruppo di diciamo sconosciuti, nel senso che persone che si mascherano dietro un nome che è Comando Barneix, hanno minacciato una serie di giuristi, attivisti, persone militanti, persone che lavorano con i diritti umani, tra cui Mirta e Francesca, che sono qui oggi, le hanno minacciati di morte. E, proprio in riferimento non a questo giudizio ma a tutto il lavoro che si sta facendo sui diritti umani e ad alcune imputazioni che sono state fatte rispetto ad alcuni militari uruguaiani. Quindi io credo che questo processo non sia inutile, perché questa storia non è una storia lontana, non è una storia di 40 anni fa, è una storia ancora molto molto molto attuale, e lo dice anche questa cosa. E credo che forse, insomma, che anche qui bisognerebbe prendere posizione rispetto a questo, e che diciamo questo evento assurdo, io io, a me sembra inconcepibile che ci siano delle minacce di morte nei confronti di alcune persone a 40 anni da quei fatti, con una politica del silenzio che è stata mantenuta da parte dei militari in tutti questi anni, e, insomma, con tutto quello che voi che siete qui sicuramente, insomma, conoscete. Quindi credo che insomma, sia invece, insomma, Guzzo si sbagliava. Questa è una questione ancora molto molto attuale e non è stato inutile fare un processo, e credo che non sia inutile neanche andare avanti. Questa, diciamo, una valutazione che poi farà la Procura, e insieme credo anche a tutti gli altri avvocati, insomma, ai presenti. Grazie, poi magari ci diciamo altro. Grazie Nadia. Volevo per... Ho aperto la sentenza e a pagina 148 leggevo l'assoluzione di Chavez Dominguez, che è l'unica assoluzione piena di questa sentenza. Invece a pagina 149 ci sono le prescrizioni di tutti gli altri, per cui le due situazioni sono molto chiare, quello che ci ha detto l'avvocato Greco. Per quanto detto da Nadia su questo crimine che è stato commesso in Uruguay, le minacce di morte a 13 persone, volevo dire che tra queste 13 persone ce n'è un amico della Fondazione Basso, che è Louis Joannet, e che è venuto più volte qui, e che è una delle persone minacciate, che tra le persone minacciate c'è Jair Krishke del Movimento per i Diritti Umani di Porto Alegre, che è stato testimone in questo processo, e Mirta Ghianze, che anche lei è venuta due volte, ha deposto due volte nel processo e ci ha accompagnato anche il giorno della sentenza. E insieme a loro è stata minacciata di morte anche Francesca Lessa, che è qui con noi via Skype, che è una ricercatrice italiana dell'Università di Oxford, che ha seguito questi procedimenti, il processo Condor in Argentina e quello che sta accadendo in Uruguay. Per cui non so se ci sentono bene via Skype, se è possibile dare la parola a Mirta Ghianze per avere una sua opinione. Sì, Mirta, si può dare un'opinione, vos si leíste la sentencia. Sí, van a traducir, pero... Sí, sí, sí, te hago yo la traducción, te hago yo la traducción. No oigo muy bien, pero más o menos he sentido y comprendido. No sé si van a traducir lo que yo diga. Sí. Non sento molto bene, non ho capito tutto quello che avete detto, spero che qualcuno traduca, faccia una traduzione, perché parlerò in spagnolo. Bueno, buenas tardes, agradezco en primer lugar esta oportunidad de comunicarme con Roma, luego de aquellos hechos que para nosotros fueron tristes del 17 de enero. Ringrazio per la possibilità di comunicarmi con Roma per questi eventi che per noi sono stati tristi, che sono quelli della sentenza del 17 gennaio. Che nostra preoccupazione ora è centrata nella possibile apelazione della sentenza che stiamo commentando, però è l'opportunità di agradecer nuovamente a los abogados italiani. Que por cierto han puesto tanto empeño en este proceso. La nostra preoccupazione è quella che si faccia l'appello di questa sentenza, ma voglio anche nuovamente ringraziare a tutti gli avvocati italiani per l'impegno che hanno messo in questo procedimento. No solo come juristas, sino come seres humanos comprometidos. Capaces de comprender el horror que entrañan estos hechos y el sufrimiento de las víctimas. Non solo come giuristi, ma anche come esseri umani capaci di sentire l'orrore e il dolore, che le ferite che questi fatti hanno provocato nelle vittime. Y que nos recibieron con profesionalidad y empatía, cuando concurrimos a declarar y antes cuando le fuimos dando elementos para manejar este juicio. Inoltre che ci hanno accolto con cordialità, con empatia, quando siamo andati a deporre, quando abbiamo incominciato a collaborare e a inviarli i materiali. Dobbiamo dire che in particolare nos interessa ora la situazione di Jorge Trócoli, che logrò eludire la giustizia in Uruguay e vive libremente in Italia. A noi ci preoccupa soprattutto la situazione di Jorge Trócoli, che è riuscito a evadere dalla giustizia in Uruguay e che adesso vive libero in Italia. Los otros imputados ya fueron juzgados en Uruguay y condenados. Gli altri imputati sono già stati giudicati e condannati in Uruguay. Aunque igualmente nos resulte un poco chocante su absolución. Pero entendemos que los argumentos utilizados, empleados por el tribunal, fueron de puro derecho. Anche se non ci colpisce la loro assoluzione, si deve dire che gli argomenti usati dalla sentenza del tribunale sono stati fatti di puro diritto. Tanto come il fatto che ci siano dei correi, l'associazione, il fatto la prescrizione dei reati, la valutazione della prova e la prescrizione dei reati. E intanto in realtà tanto sono aspetti di diritto, intendo che non puedo ni devo, sería un atrevimiento de mi parte entrar incursionar en la crítica de la sentencia o en argumentos de corte jurídico. Mi sembra che siccome i problemi non riguardano i fatti, se non sono argomenti di puro diritto, che io non possa intervenire a criticare la sentenza. Porque eso será la tarea de los abogados italianos que también nos han representado y nos Perché questo sarà il compito degli avvocati italiani che tanto bene ci hanno rappresentato e che ci rappresentano ancora. Ora, come questione a risaltare, che mi pare molto importante. Una cosa che vorrei mettere in evidenza. Il fatto che sia riconosciuto da un tribunale europeo l'operazione Condor, la vastità, come operavano. E registriamo un buon analisi storico di esa epoca oscura che nos tocò vivere in questo lugar del mondo. Inoltre la sentenza fa una ottima analisi storica su la nostra storia, sui momenti che ci ha toccato vivere. También resaltamos que el tribunal entendió probado que los imputados participaron en secuestros, torturas y que integraron la banda criminal que ejecutó los designios del Plan Cóndor. Inoltre la sentenza ribadisce che questi militari hanno operato i sequestri, hanno operato le torture e che hanno seguito le operazioni del Cóndor. Aun cuando eventualmente podamos no coincidir en los criterios de valoración de la prueba empleados para no incriminarles el homicidio de las víctimas. Anche se possiamo avere opinioni diverse sulla valorizzazione, sulla valorazione delle prove per imputarli l'omicidio delle vittime. Capisco che in Italia non si usa la figura della scomparsa forzata di persone. Che, di acuerdo all'Estatuto di Roma, è un delitto permanente che si sigue commettendo hoy día. Che, secondo lo Statuto di Roma, è un reato permanente che si commette anche oggigiorno. Che è un delitto plurioffensivo, molto differente dell'omicidio. che è un reato plurioffensivo molto diverso dall'omicidio. Però al non potersi ampliare il Statuto di Roma, sta il ostacolo della prescrizione, che sería una cuestión che me gustaría in algún momento poter intercambiar con algún abogado italiano para saber cómo podemos superar esto. E siccome non si... Siccome non si può usare lo Statuto di Roma, la figura della scomparsa forzata di persone, allora si mette il problema della prescrizione dei sequestri, e su questo vorrei avere uno scambio con alcuni degli avvocati. Questa è una domanda, però la dejo pendiente. Se non entendi male della lettura della sentenza, solamente escaparían alla prescrizione los homicidios cometidos con dolo directo, donde podría computarse el agravante de la premeditación, estas hipótesis más bien encuadrarían el dolo eventual, pero esto lo dijo... Mi sembra che la sentenza si imputi non solo l'omicidio per un dolo diretto e non per un dolo eventuale. Un dolo eventuale e non per la premeditazione. In questi minuti... Che per noi gli uruguayani che lavoriamo per memoria, verità e giustizia, il fatto che Troccoli sia libero è la rappresentazione dell'impunità. Perché noi l'ultima possibilità perché si faccia giustizia su di lui ce l'abbiamo in questo processo. Nel 1985, quando si restaurò la democrazia in Uruguay. Nel 1985, quando si è ristabilita la democrazia in Uruguay. Le possibilità di avere giustizia nei tribunali uruguayani si è chiusa presto con una legge che impidió la persecuzione penale dei terroristi di Stato. Che ha impedito la persecuzione penale dei terroristi di Stato. Así durante muchos años los familiares de las víctimas buscaron justicia en otros países lo que se le negaba en su patria. È così che i familiari delle vittime hanno cercato giustizia in altri paesi poiché le era negata nella propria patria. Por eso a fines de los 90 un gruppo de familiares, como bien ha descrito Nadia, fueron a Italia pidiendo que el fiscal Capaldo investigara sobre el destino seguito por sus familiares desaparecidos y se castigara los culpables. Per quello, come ben ha raccontato Nadia, un gruppo di familiari alla fine degli anni 90 è venuto in Italia perché il pubblico ministero Capaldo potesse indagare e fare giustizia sui propri familiari. E tutto ese tiempo che duró la investigación, las circunstancias cambiaron en este país. Durante i lunghi anni di questa indagine la situazione è cambiata in Uruguay. E a principio di questo siglo pudimos enjuiciar a repressori militari responsabili di sequestri, torturas, desapariciones forzadas. E all'inizio di questo secolo abbiamo potuto processare e condannare a militari responsabili di sequestri, torture e omicidi. Ma Troccoli? Ma Troccoli è riuscito a fuggire ed è in Italia, è protetto dall'Italia perché è cittadino italiano e ha la protezione dello Stato italiano. La lucha por verdad y justicia continúa aquí, aunque es difícil avanzar. La lotta per la verità e la giustizia continua, anche se è difficile andare avanti perché c'è un patto. Un patto di silenzio e los militares no han querido revelar el destino de los desaparecidos. C'è un patto di silenzio, i militari non hanno voluto dire qual era la sorte dei desaparecidos, si sono trovati soltanto 4 salme. Y las excavaciones, faltas de información veraz, son frustrantes. Ho ricevuto un messaggio da Mirta Gianz. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo? Que las excavaciones que se han hecho sin información veraz son frustrantes. Il problema è che si fanno delle ricerche archeologiche per scavare dove sono questi corpi e senza informazioni vere è una grossa delusione ogni volta che non si trovano i corpi. Otro problema grande es el acceso a los documentos. No se han encontrado documentos de la dictadura de cantidad y calidad suficiente. Un altro problema è la mancanza di documentazione, non si sono trovati documenti utili e che possano essere utili per andare avanti con i processi. La falta di investigazione adeguata in busca di questi documenti, prova di ciò è che Francesca, che va a parlare después, l'anno passato incontrò un documento molto importante riferito a Trocoli. Questa mancanza provava che lui aveva stato nella ESMA revistando hasta 1979. Questa mancanza nelle indagini è quello che poi parlerà, vi racconterà Francesca, che parlerà dopo di me. Francesca ha trovato un documento che prova che Trocoli ha lavorato all'ESMA in Argentina nel 1979. Non sappiamo se questo documento fu aggregato, è recente, se fu aggregato nel juicio, nos parece importante, e incluso può avere altre prove, e questa è un'altra domanda che dejo planteata, può avere prove nuove che si ottengano ora che si sta investigando gli archivi della Marina. Si puede haber algo nuevo y si puede ser agregado. Eso también lo dijo como pregunta para después reflexionarlo en preparación de la posible apelación. Vi faccio un'altra domanda che vi lascio, agli avvocati, che è sul fatto che adesso si stanno facendo nuove indagini sulla Marina Militare Uruguayana e volevo chiedere agli avvocati se adesso scoprissimo nuovi documenti, se questi documenti potevano essere presentati nel procedimento d'appello. Risposta. Dibattimento dando prova che esatto non, oppure non si sono potuti esibire. Dice l'avvocato Greco che tecnicamente con un pedido di riapertura del debate se potrebbero presentare soprattutto se sono documenti che non si tenía conocimiento, che non esistevano al momento del debate. Cioè, si encuentra una cosa nueva, se puede presentar, pidiendo que se reabra el debate. Bueno, muchas gracias. Por eso quisiera explicarles que la frustración que sentimos es grande porque siempre estamos llegando tarde con los documentos, siempre estamos llegando tarde con lo que investigamos. La nostra frustrazione è tanta perché sempre arriviamo in ritardo con i documenti, in ritardo con quello che scopriamo. Per chiudere, perché questo si fa a lungo per la traduzione. Noi viviamo in un paese democratico con tutte le garanzie, ma non siamo riusciti a chiudere le ferite del passato. un comienzo se trató de cubrir todos los sucesos de horror con un manto de olvido. Perché prima si è cercato di coprire con l'oblio tutto il dolore. Cosa che non sucedió en la Argentina, donde estuvo la investigación e nunca más el juicio a las juntas. Cosa che non è accaduto in altri paesi come in Argentina, dove c'è stato il libro Nunca Más, alcune indagini, alcune cose fritte. Invece in Uruguay questo non è accaduto. Ora, la ley che pretendió clausurar il debate, cualquier debate sobre estos hechos, no pudo impedir che la società civile si organizzara. Ma questa legge che impedì che si facessero i processi in Uruguay non ha impedito che la società civile si riunisse e si organizzara. Ora, non ha sido sufficiente lo che si ha logrado in materia di memoria, verità e giustizia. Non è stato sufficiente quello che abbiamo raggiunto in materia di memoria, verità e giustizia. Hoy en día hay nostálgicos en las asociaciones de retirados militares. Oggigiorno ci sono dei nostalgici tra le associazioni dei militari in pensione. Y grupos que cooperan con ellos o que son afines a los militares. E gruppi che collaborano con loro. Que operan en las sombras, incluso con amenazas. Che operano nell'ombra anche con delle minacce di tutto tipo alle persone che lavorano in diritti umani e anche con minacce verso le persone che lavorano per i diritti umani. Non solo questa ultima minaccia alla che hizo allusione Nadia. Non soltanto quest'ultima minaccia di cui parlava prima Nadia, ma che ha avuto episodi anteriori. Ci sono stati altri episodi e ci sono dichiarazioni. Dichiarazioni pubbliche di militari ritirati facendo apologia delle torture e dei fatti di orrore che si vivono in Italia. Ci sono dichiarazioni pubbliche dei militari in pensione che fanno apologia della tortura e dei crimini commessi. L'ultimo archivio che è stato trovato, l'archivio del poliziotto Castiglioni, ha rivelato che viviamo in una società sotto stretta sorveglianza che dal 1985 fino a 2 anni fa, perché i servizi di intelligenza solventati con fondi dello Stato, perché i servizi segreti che usando fondi dello Stato attuando in segreto non vigilavano, non seguivano. Attuando segretamente ci pedinavano, ci inseguivano. Non solo a dirigenti politici, sino anche a magistrati. Non solo ai dirigenti politici, ma anche ai magistrati, anche a persone. Per le 7 organizzazioni dei diritti umani. E militanti degli organismi per i diritti umani. Lo voy a solicitar. Nel mio caso so che ci sono parecchi dossier sui miei pedinamenti, sulle mie attività. Non li ho ancora chiesti, ma penso che ne chiederò una copia. Non è tan importante, sino è importante il hecho de che in democrazia esistiera questo tipo di vigilanza e di espionaggio. Non è importante in sé, la cosa importante è che in un'epoca democratica i servizi segreti facessero questo spionaggio e questi dossier. Por por eso todo esto lo traigo a colación, porque quería transmitirles que la impunidad personificada en Trócoli es un retroceso. Que la impunità che prende forma, che è impersonata in Trócoli, è una cosa che ci porta indietro. E che faremo tutti gli sforzi per collaborare di lo che sta a nostro alcance, per che in definitiva possa incausarsi e llevarsi a buon termine il giudizio contro Trócoli. E che faremo tutto il possibile per essere di aiuto, e che faremo tutto il possibile per collaborare con voi affinché si possa fare l'appello e procedere contro Trócoli. E vi ringrazio ancora. Beh, io pensavo di dare la parola all'avvocato Angelelli, ma visto che si è ritirato, allora chiedo all'avvocato Arturo Salerni di... No, allora, io tante considerazioni sono state fatte. Torniamo, cioè, mettiamo un attimo lo sguardo generale su che cosa ci ha dato questo processo e che cosa ci dà oggi in questo primo passaggio, questa sentenza. L'impianto generale della ipotesi accusatoria è stato confermato, e questo è un primo elemento che noi dobbiamo dire, ed è stato confermato su una serie di passaggi e di aspetti che non possono essere sottovalutati e che costituiscono la piattaforma per il lavoro che noi faremo nei prossimi mesi e probabilmente anche negli anni a venire, sapendo quanto possono durare ancora le successive fasi processuali. Che cosa ci dice questa sentenza? E qual è l'importanza storica di queste 150 pagine di motivazione, dei 2 anni che le hanno preceduti, dei tanti anni di apporti da parte della Procura, dell'attività inquirente e degli apporti che le singole parti civili, che con il loro dolore e con la loro testimonianza, hanno contribuito a costruire questo passaggio? Qui si è costruita una pagina di storia, qui viene ricostruita sotto le lenti del diritto penale e sotto l'individuazione del diritto criminale e quindi del comportamento criminale che si è determinato in quegli anni, viene ricostruito quantomeno un decennio di storia dell'America Latina. Viene ricostruito il fatto che sotto una precisa regia vi è stato un patto tra le dittature che si chiama Piano Condor, viene ricostruito con esattezza, con le testimonianze, in primo luogo le testimonianze di chi come Mirta è venuto qui a ricostruire che cosa è successo in quegli anni, ma attraverso i documenti, quelli desecretati dal Pentagono, che cosa è successo, e si sono affermate responsabilità. E si è detto, guardate, su ogni omicidio che è stato compiuto, e gli omicidi venivano compiuti quelli specifici del Piano Condor, tranne alcuni casi, ma ve ne accennerò proprio brevemente, avvenivano nel senso che i rifugiati di un determinato paese che si trovavano nell'altro paese, con la collaborazione tra il servizio del paese da cui la persona veniva e il servizio della persona del paese in cui la persona si rifugiava, venivano sequestrati, torturati, nella gran parte dei casi uccisi, i loro corpi scomparivano, i loro figli, se ce n'erano, venivano sequestrati, rapiti, assegnati ad altre persone, spesso alle famiglie dei torturatori o dei loro vicini. Noi tutto questo l'abbiamo ricostruito, su questo abbiamo avuto l'affermazione della responsabilità penale di 8 persone e la morte, perché mors omnia solvit, ma non assolve certamente sotto il profilo storico, sotto il profilo storico e sotto il profilo del dramma che è stato compiuto, si è dichiarato di non doversi procedere anche perché i reati, i delitti ascritti sono estinti per morte gli imputati nei confronti di Sergio Victor Arellano Stark, di Juan Contreras, di Marcello Morembrito, di Ivan Paulos, di Gregorio Alvarez Armellino. Quindi si è arrivati a queste 8 pronunzie. E si è arrivati, diciamo, in questa fase in cui la sentenza ci dice anche, guardate che le 23, 24, non ricordo quante erano, 26, richieste di ergastolo che sono state formulate ad esito di un lungo, faticoso, difficile, sofferto dibattimento, non sono delle richieste infondate. Perché? Non solo perché abbiamo l'affermazione della responsabilità penale dei capi, su tutto. Su quello che è avvenuto in Bolivia, su quello che è avvenuto in Argentina, su quello che è avvenuto in Uruguay, su quello che è arrivato in Cile, perché vi era un patto e perché quel patto era finalizzato al sequestro e alla morte, non come dato eventuale, alla morte come fatto premeditato degli oppositori politici, di coloro che erano in armi, di coloro che erano senza armi, dei sindacalisti, degli intellettuali, di una classe dirigente, di una classe anche di una generazione di militanza politica all'interno di quel paese in un piano di sterminio. Ci dice anche la sentenza che per tutte le altre persone su cui non si è potuti, tranne un caso che ci ha citato Orghe, su cui non si è potuti arrivare all'affermazione di responsabilità penale, non si arriva per due ordini di motivi. Uno, perché il reato di sequestro di persona, la tortura non è contemplata nell'ordinamento, ma adesso torniamo. Il reato di sequestro di persona, e qui è molto importante quello che ci ha detto Mirta, sulla mancata applicazione in Italia, al di là del recepimento della convenzione sulla sparizione delle persone, su tutti questi casi si è affermato che le persone che sono state portate alla sbarra, al giudizio, erano colpevoli del sequestro, della tortura. Dice la Corte, io non riesco a definire l'ultimo passaggio. Poi diremo perché noi criticheremo questa sentenza e chiederemo alla Corte d'Assise d'Appello di lavorare su questa sentenza. Che ha ragione Nadia, è una sentenza ben fatta, è una sentenza che ricostruisce il dolore, dei ragazzi che sono cresciuti in altre famiglie che a 10, 11, 12 anni, 20 anni hanno scoperto di essere stati cresciuti nelle famiglie dei loro torturatori, dei torturatori dei loro genitori, di coloro che avevano ucciso i loro genitori. Quindi è una sentenza che ci riporta tanto, ci riporta la ricostruzione, ma dice io su quest'ultimo passo non riesco a farlo. E comunque dice, io non riesco a farlo sui gradi intermedi, facendo una distinzione, su questo ragioneremo. Io sono convinto che la Procura e noi abbiamo perfettamente ragione, non solo sul piano storico e umano, ma anche sul piano giuridico dell'affermazione della responsabilità penale delle persone che sono state portate a giudizio e che porteremo davanti al grado d'appello. Dice, ma guardate che se anche noi avessimo dimostrato in alcuni casi, per il grado intermedio, non per coloro che per loro pianificavano generalmente tutti gli omicidi, perché di questi è affermata la responsabilità, ma per quei determinati gruppi, io vorrei dire, stiamo parlando dell'Uruguay, perché questo processo ha riguardato tutta l'America Latina. In Uruguay avevamo una certa concentrazione maggiore anche di imputati e di casi per una serie di, come dire, di percorsi che si sono determinati. Il gruppo Gavazzo, diciamo, del 76, del torturatore Gavazzo, il gruppo Troccoli, diciamo, della fine del 77, per loro, anche se si fosse arrivati all'accusa, all'affermazione dell'omicidio, eventualmente si sarebbe dovuto parlare di omicidio attraverso un dolo eventuale, perché alcune persone sono tornate e altre no, e quindi loro, diciamo, non avevano premeditato l'omicidio, ma l'avevano messo in conto, e siccome è messo in conto, diciamo, potrebbe operare la prescrizione, che invece non opera con la premeditazione, sostanzialmente. No, questo è il ragionamento. Quindi dice, però io non arrivo neanche alla prova del dolo eventuale e comunque non ho la necessità di farlo perché il reato è prescritto. Va bene? Quindi noi dobbiamo dimostrare che quei gruppi organizzati ben sapevano e intenzionalmente sapevano che le persone che loro avevano catturato sarebbero state destinate alla morte. Al processo, secondo noi, la diversa lettura sarà questa, già esistono pienamente, le abbiamo portate sul piano documentale e testimoniale le prove di questo, di questa consapevolezza, di questo pactum sceleris che riguarda non soltanto i capi dei capi a livello continentale, ma i gruppi operativi e i loro comandi interni nell'Uruguay del 76 e del 77. Questo è il processo d'appello. Questo sarà il processo d'appello su un fatto importantissimo che è questo. Certo, noi ci dobbiamo dire anche che la mancata il mancato inserimento nel nostro codice penale del reato di tortura e della previsione della Convenzione internazionale sulla imprescrittibilità del reato di tortura. Guardate che i fatti che noi diciamo dell'Uruguay adesso dimostrano il perché, non soltanto su un piano etico e storico, va determinata l'imprescrittibilità, perché noi stiamo parlando di quegli apparati che non faranno uscire le notizie, le cui notizie usciranno adesso nel corso del nostro procedimento. Questo è il senso sul piano internazionale della imprescrittibilità per questo in questo caso e con riferimento a quella convenzione che anche aspetta, diciamo, un'entrata piena nel nostro ordinamento, quella sulla convenzione delle persone, sulla sparizione forzata delle persone. Noi ci troviamo di fronte a questi casi, a questi buchi del nostro ordinamento, ma in questo processo ci dice che Troccoli è un torturatore, è un sequestratore, è un torturatore. Non riesco a dire, dice il giudice del primo grado, che abbia concretamente concorso e sapeva che si concorreva a quell'omicidio, lo dice perché alcuni sono tornati, anche i testimoni che ci hanno raccontato quei giorni terribili in quelle celle, in quelle mani che raccontavano e spiegavano con linguaggio muto quante altre persone erano tornate, quanti bambini erano stati sottratti, quante morti e crudeltà erano state determinate. Questo è il processo che noi dovremmo fare in appello. E su quei due elementi, e su quei due gruppi di omicidi e di situazioni, di torture, di sparizioni, noi dobbiamo dire, guardate, che lo stesso metodo che in termini ampi è stato determinato per affermare la responsabilità penale dei capi, va affermato con riferimento ai capi di quel luogo, di quella situazione, di quella sistematica operazione di sequestro e tortura finalizzata all'uccisione degli oppositori politici, dei loro familiari, spesso, come nel caso che invece è portato a condanna della mamma della Corinaldesi, della mamma di Stamponi, quella signora, e noi abbiamo avuto lì la condanna di la mamma di Luis Stamponi, un eroico, dobbiamo essere fieri noi italiani di aver avuto Luis Stamponi, è un eroico combattente dell'America Latina che ha attraversato gli anni dell'America Latina, e la cui mamma sa che lui viene catturato. Il giorno dopo va in Argentina, in quel posto di frontiera in cui sa che viene, che è stato portato, e questa signora ormai anziana scompare. Su questo abbiamo avuto la condanna, su Campiglia abbiamo avuto la condanna, uno dei grandi capi dei Montoneros, abbiamo avuto la condanna e lui era scomparso in un altro paese, in un volo, passa attraverso il Brasile. Abbiamo avuto delle affermazioni importanti di ruoli, di persone che hanno giocato il ruolo sanguinario e terribile in quegli anni dell'America Latina. Combatteremo ancora perché la verità in tutti i passaggi si determini e la vogliamo affermare sul piano processuale. Questo primo grado è un grande passo in avanti. Certo, non condividiamo alcune affermazioni, ma siamo convinti che nei gradi successivi del giudizio queste affermazioni con riferimento a questi punti, che non sono certamente marginali, ma che riguardano alcuni aspetti, sulla base anche di quelle letture, anche di pezzi di quelle letture che la sentenza fa, noi riusciremo a cambiarli ed affermare la responsabilità penale di tutti quegli acclarati sequestratori e torturatori, perché sono già acclarati sequestratori e torturatori. Troccoli, ci dice la sentenza, è un torturatore sanguinario. Ce lo dice la sentenza, eh? Ringraziamo l'avvocato Salerni per la passione, oltre che per la competenza con cui segue questi processi. Alessandro Leogrande vuole fare una domanda, ma sarebbe bene che la faccia qui, così viene registrata. Era per una domanda al volo ad Arturo Salerni. Se nel tempo che intercorre da qui all'apertura dell'appello la legge, l'Italia facesse la legge sul reato di tortura. Non si applica per un principio generale e giustissimo, che è quella della impossibilità di applicare la legge penale successiva a fatti compiuti prima, quindi non si può condannare, quindi non può essere neanche sollevata oggi, mi è posto da molti la questione di costituzionalità della mancata presenza del reato di tortura, perché il reato di tortura, se entra in, come dire, diventa reato successivamente, non può essere applicato ai fatti precedenti in forza dell'articolo 25 della nostra Costituzione. E allora l'internazionalista mi corregge. No. Io però, scusatemi, poi apriamo il dibattito. Io volevo ringraziare, volevo ringraziare per la presenza anche dell'ex vice sindaco Luigi Nieri e di una delle parti del processo, la CGIL, c'è Sergio Vassoli che ci ha accompagnato anche tutto il processo, la CGIL come CISL e Guil sono parte interveniente nel processo, lo era anche il Comune di Roma, anche se poi non è stato molto presente, è stato presente attraverso l'avvocato Salerni per la vicenda Recagno, mi pare. Un'ultima cosa che volevo sempre, che mi aveva ricordato Mirta Gianse e che sono andato a rileggere la deposizione di Adriana Chamorro, quando parla, quando descrive come venivano fatti i trasferimenti, tutto il gruppo di uruguaiani è stato trasferito, i prigionieri di quel campo, quando c'erano i trasferimenti veniva applicata un'iniezione che le intontiva, e venivano loro tolto il cappuccio, che di solito avevano un cappuccio, le venivano tolto il cappuccio, le veniva messo del cotone sugli occhi e una fascia di garza intorno. Le venivano tolti i vestiti, le venivano tolte le manette, e così nudi, intontiti, venivano legati con un cordoncino e portati in fila, caricati sui camion, e questo è la fine che hanno fatto le persone che aveva sequestrato e torturato Troccoli. Adesso che già stanno tutti chiedendo quale intervento dell'internazionalista Campisi che già ci chiarisca un po' tutti questi elementi che mancano anche per una mancanza che in Italia c'è tra diritto penale e diritto internazionale. La parola a Maria Chiara Campisi. Grazie Jorge. Grazie per questo invito, grazie alla Fondazione Basso per ospitare questa riflessione che mi sembra davvero necessaria. Beh, devo dire che soprattutto alla luce della presenza di relatori così qualificati su questa sentenza, quando Jorge mi ha chiesto di intervenire e di partecipare a questo panel, ho riflettuto a lungo su che tipo di contributo avrei potuto effettivamente dare, in che modo il mio profilo di internazionalista, di ricercatrice di diritto internazionale, mi sentivo un po', come diceva Nadia, anch'io un'intrusa, una clandestina in questo panel. E quindi proprio sulla base di queste valutazioni ho pensato un po' a che cosa, come impostare questo mio intervento. Quindi in questo senso credo di volermi discostare un po' dalle riflessioni che abbiamo fatto finora e invece incentrarmi su alcuni degli aspetti che sono venuti fuori. Un po' Mirta ha riflettuto su questi aspetti, ancora Arturo li ha tirati fuori, per aggiungere un livello ulteriore a questa riflessione, guardando al caso rispetto al quadro giuridico internazionale che vincola l'Italia, che vincola il nostro paese rispetto ai fatti del caso. Quindi in questo senso vorrei riflettere sul tema della responsabilità del nostro ordinamento, la responsabilità dell'Italia rispetto ai fatti in oggetto. Ci spostiamo quindi dal piano prettamente della responsabilità penale individuale degli imputati per i fatti di questo caso, per guardare a un altro livello di responsabilità, la responsabilità internazionale dello Stato, la responsabilità dell'Italia per violazione. No, sono infatti contentissima di questo. Quindi guardare alla responsabilità dell'Italia sul piano internazionale, la responsabilità dello Stato per violazione di obblighi internazionali. E partiamo da un dato di fatto. Il dato di fatto che mi sembra un po' di sentire è che sia qui ma anche con altri colleghi con cui si rifletteva di questa sentenza, mi sembra che di fondo ci sia almeno parzialmente una insoddisfazione rispetto a questa sentenza, quantomeno nelle conclusioni finali. Sì, è una sentenza positiva, sì, è una sentenza, è un punto di partenza, ci sono degli avanzi per quanto riguarda l'accertamento della verità, però almeno umanamente questa sentenza lascia profondamente insoddisfatti, almeno nel mio caso, lo diceva anche Nadia, lo diceva Mirta. Non tanto perché sia una decisione restrittiva, una decisione poco accurata, una decisione poco motivata, tutt'altro, l'abbiamo già detto, è una sentenza che offre dal mio punto di vista una ricostruzione puntuale, accurata, del quadro generale, del quadro complessivo sociopolitico, istituzionale nel quale si inseriscono le vicende di questo caso. Riesce questa sentenza a delineare, a tracciare i profili delle vittime, ce lo diceva Nadia, sembra quasi un romanzo, non tutte le sentenze sono così, Nadia. Esatto. Lo fa con umanità, con rispetto per le vittime, ne racconta le ragioni della loro criminalizzazione, della loro vittimizzazione e il contesto in cui queste violenze si vanno ad inserire. Quindi in questo senso mi sembra che la sentenza sia splendida da questo punto di vista. Dal punto di vista storico, lo diceva anche prima Arturo, è un tributo fondamentale alla memoria tanto individuale quanto collettiva di queste storie, sia per le vittime del caso, sia per la società in generale, ce lo diceva anche Mirta prima. E quindi nel complesso, proprio per questa sua potente forza narrativa, mi sembra che la sentenza vada oltre quello che normalmente si chiede a una sentenza che viene da un tribunale penale, che ha come responsabilità principale, come compito principale, quello di accertare la responsabilità, la colpevolezza o meno degli imputati. Eppure, umanamente, questa sentenza mi lascia personalmente insoddisfatta, perché fallisce proprio in quello che dovrebbe essere il suo ruolo principale. Io non sono una penalista, quindi mi sento libera di poterlo dire. Questa sentenza, secondo me, dal punto di vista umano quantomeno, è un fallimento, perché dice: c'è un torturatore, ci sono dei torturatori, ci sono dei sequestri, degli atti atroci, ma noi non li possiamo condannare, non possiamo stabilire le responsabilità. Riesce a stabilire responsabilità nei confronti dei vertici, dei capi, lo dicevi tu Arturo, i cosiddetti big fishes. Per queste persone riesce a dire: queste persone, è provata la partecipazione morale e materiale ai reati commessi per quanto riguarda gli omicidi, e non chiede ulteriore dimostrazione. Diversa invece, come diceva Arturo, è la ricostruzione che fa per la responsabilità degli intermedi. Dice: per queste persone non si può provare, per quanto riguarda i casi di omicidio, le imputazioni di omicidio, non si può provare il nesso di causalità, cioè manca il collegamento tra l'attività di queste persone, gli atti di queste persone e l'evento mortis della vittima. Dice: sì, e è provato che queste persone abbiano arrestato illecitamente, abbiano torturato, abbiano sequestrato queste persone, ma non possiamo dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che queste persone abbiano concorso anche a cagionare la morte. È ipotizzabile, dice la Corte, è ipotizzabile, ma non è certo. E perché? Perché, la Corte dice, da un certo momento in poi le vittime uscivano dalla disponibilità materiale degli imputati, venivano trasferite, ce lo diceva Jorge, venivano trasferite e se ne perdevano le tracce. E quindi ricostruire questo nesso di causalità, questo collegamento, non è possibile da un punto di vista processuale. Scusate, e i trasferimenti dicono non dipendevano da loro? E i trasferimenti dicono non dipendevano da loro, per cui non si può ricollegare l'evento morte all'azione di questi individui. Per quanto riguarda i sequestri è troppo tardi, è passata la prescrizione, che se giuridicamente non è una soluzione, moralmente, umanamente è una mancanza di punizione, è un dato di fatto dal mio punto di vista. E qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale di questa incapacità della sentenza di stabilire responsabilità, dal mio punto di vista, è il fatto che la sentenza manca il bersaglio. Cioè, qui si stanno processando per sequestri e omicidi casi di tortura e sparizione forzata. stiamo semplicemente guardando ai reati sbagliati, ma la colpa non è dell'accusa, non è dei giudici che hanno fatto una erronea valutazione giuridica dei fatti, no, la colpa è del nostro ordinamento, di un ordinamento penale che dal mio punto di vista è carente e non è conforme agli standard internazionali che impongono in capo agli stati l'obbligo di reprimere e punire i responsabili di crimini internazionali. Perché sì, torture e sparizioni forzate sono crimini internazionali, come ci ricordava Mirta, che però all'interno del nostro ordinamento non ricevono riconoscimento come autonomi titoli di reato e quindi non sono punibili autonomamente come crimini internazionali. Sì, il procuratore, l'accusa, ha cercato di rabbattarsi, scusatemi il termine, passatemi il termine, con gli strumenti che aveva a disposizione, con l'omicidio, con il sequestro. Capaldo mi pare avesse provato anche a sviluppare una ricostruzione abbastanza affascinante del delitto di strage, proprio per dire quello che ho in mano non è sufficiente per esprimere il giudizio morale, la gravità morale di questi fatti. L'omicidio, il sequestro non sono sufficienti ad esprimere quanto grave sono i fatti con cui ci stiamo confrontando. Quindi questi strumenti non sono sufficienti a cogliere l'essenza giuridica e l'essenza sostanziale del crimine con cui stiamo avendo a che fare, per il quale si sta procedendo. Come diceva Mirta, questi sono casi di sparizione forzata e processarli per sequestro e omicidio non solo non è sufficiente, ma è inadeguato. È come dire andiamo alla caccia al fagiano con un fucile ad acqua. Non è sufficiente, non mi sembra. E quindi il problema di fondo, a mio avviso, è che ancora una volta, purtroppo, come nel caso di tortura, all'interno del nostro ordinamento si è venuto a creare questo vacuum normativo che rende il nostro paese, come è stato detto in un'altra sede rispetto al reato di tortura, un porto sicuro per quelli che sono i criminali internazionali. Ed è il caso di Troccoli, me lo state dicendo voi, questo senso di ingiustizia. E allora, se questo è il problema di fondo, cioè l'errata qualificazione giuridica dei fatti per mancanza di una norma incriminatrice adeguata all'interno del nostro ordinamento, secondo me vale la pena guardare al sistema internazionale di giustizia, al sistema di diritto penale internazionale, ma in generale al sistema internazionale, per capire che cos'è questo reato di sparizione, questo crimine di sparizione forzata, in che modo potrebbe essere inserito nel nostro ordinamento. Lo sapete, nasce come violazione, come autonoma violazione di diritti umani proprio in conseguenza dei fatti dell'America del Sud, delle dittature militari del 70 e dell'80, quindi proprio precisamente per i fatti di cui stiamo trattando. E tecnicamente, come anticipava Mirta, il reato di sparizione forzata rappresenta in un unicum, in una fattispecie unitaria, una serie di azioni criminali, di atti criminali, che già di per sé costituiscono violazioni ai diritti umani, a partire dall'illegittima privazione della libertà, la violazione del diritto di informazione, garanzie giurisdizionali, le torture, le esecuzioni sommarie. Quindi quando... Scusate, sto litigando col microfono. Quindi... Dall'Uruguay senza rapporto. Ah, ok. Quindi... In più, oltre questo, quando la sparizione forzata si va ad inserire in un quadro sistematico perpetrato dallo Stato, ad opera dello Stato oppure con il suo supporto, con la sua acquiescenza, che fa parte di un attacco sistematico contro la popolazione civile, ci dice la Corte, lo Statuto di Roma, diventa un crimine contro l'umanità e quindi un crimine internazionale. Ma quello che mi preme qua in questa sede a rilevare per quanto riguarda il crimine di sparizione forzata, perché mi sembra che esprima bene l'importanza e la rilevanza che ha nel caso specifico, nella sentenza in esame, è proprio questa assenza di informazione. Mi sento. Dicevo, l'essenza del crimine di sparizione forzata sta proprio nell'assenza di informazioni. assenza di informazioni sulla sorte della vittima, il silenzio che circonda l'arresto, la detenzione, la mancanza di documenti, la mancanza di rapporti, l'assenza di investigazioni che permettono di ricostruire la catena di eventi che poi porta alla sparizione della vittima. Esattamente quello che succede in questa sentenza, esattamente la ragione per cui il giudice dice: non riesco ad arrivare a dichiarare la colpevolezza. Proprio per tutte queste ragioni, proprio per tutto in questo senso, secondo me l'incertezza è proprio, chiedo scusa ai penalisti su questo, per l'entrata a gamba tesa nel vostro ambito, ma mi sembra che l'incertezza sia proprio elemento costitutivo, elemento essenziale del crimine di sparizione forzata, che va tenuto in considerazione nel momento in cui vanno accertate e valutate le prove, vanno accertati i nessi di causalità tra l'evento e gli individui che hanno preso parte all'azione. Quindi in qualche modo l'inserimento del reato di sparizione forzata e l'inquadramento di questi fatti come casi di sparizione forzata avrebbe consentito o consentirebbe di leggere di leggere i fatti, sicuramente non si applica retroattivamente, però ci potrebbero essere dei ragionamenti da fare per provare ad argomentare diversamente la questione, no? E, dicevo, se avessimo o se potessimo utilizzare questa lente per inquadrare questi fatti, questo consentirebbe di utilizzare, di ricostruire i nessi di causalità, l'accertamento delle prove, la decorrenza dei termini di prescrizione in maniera differente, perché si tratta di un reato differente. E sì, la sentenza lo dimostra, lo dice, parla di sparizione forzata, lo nomina, però non lo può utilizzare semplicemente perché nel nostro ordinamento non è un reato, non è contemplato come reato. Eppure l'Italia, sì, sotto il profilo del diritto internazionale è tenuta ad assicurare la punizione e la prevenzione della sparizione forzata e la repressione degli autori di sparizione forzata in virtù dei suoi obblighi internazionali. E qui arriva il profilo della responsabilità dello Stato. Ci sono degli obblighi internazionali che obbligano il nostro Paese a perseguire gli autori dei crimini di sparizione forzata all'interno del nostro ordinamento. La Convenzione internazionale sul crimine per la protezione di tutte le persone contro la sparizione forzata, che l'Italia con gravissimo ritardo ha ratificato nel fine del 2015, tra l'altro dopo il caso Malatto, non casualmente secondo me, dove l'articolo 9 impone a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per esercitare la propria giurisdizione sul reato di sparizione forzata. Lo Statuto di Roma, l'abbiamo citato più volte, che vincola gli Stati parti al dovere di esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili dei crimini internazionali e che poi all'articolo 7 definisce la sparizione forzata a certe condizioni come crimine contro l'umanità e crimine internazionale. A livello consuetudinario non sono pochi i giuristi internazionali di diritti umani che considerano esistere il divieto di sparizione forzata come un obbligo generale, un obbligo consuetudinario in capo agli Stati e che quindi vincola la collettività degli Stati, quindi naturalmente anche l'Italia. Quindi per tutti questi aspetti l'Italia è vincolata a rispettare i propri obblighi internazionali, tanto generali quanto pattizi, nell'assicurare la prevenzione e repressione del delitto di sparizione forzata e la punizione dei responsabili. E per far ciò, secondo me, non può prescindere dall'incorporare all'interno del proprio ordinamento una norma incriminatrice corrispondente per consentire di adempiere ai propri obblighi internazionali. Quindi secondo me il punto fondamentale è che al di là del caso specifico, al di là di questa sentenza, se, utilizzando al contrario strumentalmente questa sentenza per un discorso più generale sul sistema giuridico italiano e sul tipo di posizione che l'Italia può e dovrebbe, dal mio punto di vista, assumere a livello internazionale per la lotta contro l'impunità, il nostro legislatore dovrebbe assumere al più presto degli strumenti legislativi adeguati per incorporare tanto la tortura quanto la sparizione forzata come reati all'interno del nostro ordinamento, per far sì che l'Italia non sia, come diceva Marchesi, un porto sicuro per i criminali di diritto di crimini internazionali. Prego, avvocato. Allora, due sole precisazioni. Allora, secondo me l'avvocato greco. L'Italia non è assolutamente, e la sentenza lo dimostra, un porto sicuro per i crimini internazionali. E la sentenza ne è la prova. Dello Stato. Allora, questo anche sulla base di una cosa, e questo sarà il compito nostro. Voi, molti di voi, ricorderanno il periodo dei sequestri di persona a scopo di estorsione nel nostro paese, dove i sequestratori, nonostante non sia stato trovato più volte il corpo della vittima, sono stati condannati per sequestro di persona e per omicidio. Quindi sarà compito nostro, in queste ipotesi, dimostrare, e questo apro una parentesi, il reato di tortura, come non esiste ancora da noi. Ma noi abbiamo dei reati ben più gravi come pene basi, sia nel massimo, cioè sia come pena base minima e massima, perché il sequestro di persona, se deriva la morte del soggetto, la convenzione internazionale che noi abbiamo ratificato, su cui non abbiamo dato, è molto più grave, prevede l'imprescrittibilità. Sì, ma da noi sai perfettamente che non esistono, perché da noi non esiste, perché non ci dimentichiamo che tutte le convenzioni vanno calate in quella che è la singola carta costituzionale del paese. Noi per esempio processiamo il soggetto in contumacia, abbiamo la prova provata che è Troccoli, perché è stata depositata la sentenza argentina, non è stato perseguito in quel paese perché era assente. Quindi da noi il fatto che tu ti sottrai alla giustizia, e nei sistemi anglosassoni, in tutti i sistemi anglosassoni, il soggetto che non è a conoscenza del procedimento non può essere processato. Da noi quello che invece è assente o appunto è contumace è processato e condannato. Quindi ogni paese, noi dobbiamo calare tutte queste situazioni in quella che è la realtà del singolo paese. Cioè da noi, se Troccoli fosse scappato, veniva processato, e se doveva essere condannato, veniva condannato. A contrario, abbiamo la prova che così non è stato, appunto, nel paese dove è stata appunto fatto l'altro procedimento. E appunto in questo senso qui starà a noi dimostrare il fatto che, se anche non sono stati trovati i cadaveri, proprio rifacendoci alla giurisprudenza sui sequestri di persona, dire: guardate che se noi abbiamo la prova provata, e se in atti c'è la prova provata che questi soggetti hanno partecipato alla sparizione di queste persone, sono altrettanto responsabili della morte di queste persone, anche se il cadavere, esatto, anche se il cadavere non si trova. Così come sulla giurisprudenza per i sardi e i calabresi a proposito dei sequestri di persona. Quindi voglio dire, cioè, quindi abbiamo nel nostro sistema, sta a noi a questo punto dimostrare che sostanzialmente siamo in un'ipotesi e siamo appunto in una situazione del genere. Sotto questo aspetto, quindi, io non è che perché voglio fare l'avvocato dello Stato e voglio lanciare, ma poi spezzare, noi in questo momento non vogliamo rompere il fronte difensivo, quindi no, siamo per d'accordo, carità, con te. Per carità, ma proprio perché dico, anche perché noi non è che dobbiamo cercare di portare appunto alla condanna di questi soggetti e all'accertamento della responsabilità, poi seguire alla condanna di questi soggetti su situazioni ipotetiche e future. Noi lo dobbiamo fare sulla scorta di quelli che sono gli elementi fattuali e giuridici esistenti nel nostro ordinamento, e già ci sono nel nostro ordinamento. Io quello che voglio dire è che nel nostro ordinamento già ci sono e sono pienamente presenti, perché, ripeto, il sequestro di persona, che è provato, lo dà per provato, e noi dobbiamo legare a quello omicidio. Guardate che la Corte dice sostanzialmente, e ecco perché io prima ho parlato della prescrizione, cioè la Corte dà per acclarato e assodato il fatto che questi soggetti sono responsabili. dove arriva a dire però c'è il decorso del tempo? Perché qui non c'è la prova che si sia trattato di un omicidio premeditato. Oh, è questo il concetto, e non c'è la prova che questi soggetti che erano singolo, da parte del singolo, dell'intermedio, dell'intermedio secondo loro non c'è. Starà a noi dire no, guarda che secondo noi c'è, quindi è inutile che andiamo a inseguire il discorso, il reato, il crimine internazionale, la sparizione eccetera eccetera, basiamoci su quello che già abbiamo, perché già abbiamo questi elementi, secondo me, per arrivare a dimostrare che invece, al contrario, c'era una piena cognizione e responsabilità da parte dei soggetti, che qui, oggi, già c'è il primo passo, perché qui, oggi, già sono stati ritenuti responsabili di avere eseguito queste torture e questi sequestri. Ci manca solo il là per dire come potevi escludere che, per esempio, da un sequestro, da una tortura non ci fosse come conseguenza la morte. Questo è come nel sequestro di persona, come puoi pensare che tenevi legato a un palo o sotto una buca scavata in Aspromonte quella persona non decedesse. Ne abbiamo ipotesi del genere, dobbiamo solo portarle all'attenzione del giudice appello, a mio modesto modo di vedere. Allora visto che non vogliamo dare la parola all'avvocato Angelelli, io volevo dire che io ho parlato informalmente, una chiacchierata sia con la pubblico ministero Tiziana Cuggini che col procuratore aggiunto Francesco Caporale, i quali, a quanto mi dicono, a quanto mi dice anche la dottoressa Cugini, lei intende fare appello, e il dottor Capaldo è andato in pensione e il procuratore aggiunto che segue l'antiterrorismo e che coordina le attività della dottoressa Cugini è il procuratore Francesco Caporale, che anche lui dice che è pronto a controfirmare la richiesta della dottoressa Cugini. Ricordo che il dottor Caporale è stato pubblico ministero in due procedimenti, che dove sono stati condannati dei militari argentini, in particolare nel primo processo con la sentenza del 6 dicembre del 2000 è stato condannato il generale Riveros e altri militari della prefettura per l'omicidio del cittadino sardo Martino Mastinu, il cui corpo non è mai stato trovato, cioè solo si è provato che l'hanno sequestrato e che era stato consegnato dai militari alla caserma di Campo de Mayo, e questo è bastato al giudice Mario Lucio D'Andria per firmare la sentenza di condanna. Similmente, il 14 marzo 2007, in un altro procedimento per tre desaparecidos italiani che sono stati portati al centro ESMA e i cui cadaveri non si sono trovati perché sono stati buttati dagli stessi aerei in cui sono stati buttati gli uruguaiani sequestrati da Trocoli, anche lì c'è una sentenza di condanna, per cui credo che ci saranno molti elementi. Proprio Caporale adesso deve controfirmare la richiesta d'appello. Adesso finalmente do la parola, sempre intercalando un maschio e una femmina, adesso all'avvocato Mario Angelelli, da ultima Francesca Lesa, e poi tutte le repliche. Si prega di parlare con quel microfono, perché è quello che sentono in Uruguay, questo non si sente in Uruguay. Grazie, io sarò veramente brevissimo, perché l'avvocato Mario Antonio Angelelli è il presidente dell'associazione Progetto Diritti, peraltro, oltre che avvocato di parte civile. Perfetto, grazie, io ringrazio tutti voi, ringrazio a 24 marzo e ringrazio tutti i presenti. No, io dico che questa discussione, che è molto interessante non solo per i giuristi, penso, sul ruolo dell'Italia rispetto ai reati ai crimini internazionali vada, secondo me vada bene anche oggi, però quando la sentenza sarà definitiva, così capiamo se possiamo, che adesso mi sembra bella anche, ma da approfondire subito dopo, perché poi vedremo, insomma. Io spero con tutto il cuore che l'avvocato dello Stato abbia ragione in questo caso. E perché? Naturalmente io sono d'accordo con quasi tutto quello che è stato detto, perché questo, prima di tutto, io lo sottolineo, perché è una cosa, questa sentenza è una pagina fondamentale, importantissima, di storia. Cioè io mi metto nei panni di uno studioso, di uno storico che 10 anni fa, 20 anni fa, cioè se avesse potuto leggere queste pagine, sono di una cosa, di una chiarezza, di una incredibile chiarezza, perché anche questo è molto importante, che gettano una luce che danno ragione a noi, a tutto quello che dicevamo noi, e anche una soddisfazione nostra, anche noi, diciamo, sia come avvocati, come diceva Mirta, ma anche come persone che hanno militato per una parte politica, e che queste cose le dicevano, ma che erano presi per matti 20 anni fa, come voi, come quello che voi avevate intuito, che avevate sicuramente capito prima di allora. Adesso c'è una storica sentenza che dice che dei capi di Stato, non dei capi di Stato, si riunivano in Cile la prima volta tutti assieme per sterminare, per rapire, per assassinare gli oppositori politici. È una cosa che è veramente strabiliante. Cioè noi poi ci abituiamo alle cose, noi ci siamo poi abituati avendo fatto il processo, perché questo è stato anche nella sua, diciamo, nel suo svolgimento, in cui a me è dispiaciuto tanto non esserci stato sempre, per cui invidio anche Nadia che era lì presente. No, lo dico non veramente, sono stato i momenti in cui mi sono sentito più partecipe del processo sono stati quando ci sono state le scolaresche. Ci sono state delle scolaresche, ce ne dovevano essere di più. Questo era un processo che doveva essere pubblico, ma pubblicizzato, doveva uscire, perché per nell'interesse, uso termini adesso a fine di questo incontro, nell'interesse dell'umanità, perché quella era l'umanità che passava, una pagina di storia, una pagina di umanità che passava come un film, meglio di un film, davanti ai nostri occhi, agli occhi di chi c'era. Detto quindi su questo punto io non riesco a dire sono deluso. Poi come giurista poi lo sarò, e hanno ragione i nostri amici, compagni uruguaiani sul fatto che si sentono veramente riportati indietro, no? Sul fatto, specialmente i Roccoli e degli assassini, io lo dico, Automotore e Sorletti. Ora, però, questo è il primo dato che io lo devo, per parte mia, risottolineare. È stato fatto da tutti, però ci tenevo, perché è quello più evidente, diciamo, no? È quello più importante anche dal punto di vista storico. Poi, certo, noi quando, prima della sentenza, sai, gli avvocati si dicono, ma come sarà? Avevamo paura per il contrario, noi avevamo paura che non venissero condannati i vertici. Questo l'avvocato Salerni sbaglia ovviamente ogni previsione, da quelle elettorali a quelle, dice, ma pure io su questo diceva, abbiamo paura perché i vertici probabilmente, guarda, è stato difficile, perché tutto il nostro sforzo era quello, no? Di anche giuridico, di far evidenziare che c'era una catena di comando certa, sicura, e quindi che gli ordini partivano dall'alto. E voi sapete che mentre avevamo tutte le testimonianze sui quadri intermedi, non le avevamo per i centri apicali, come dice la la sentenza. Invece, a sorpresa, diciamo relativamente, perché poi ci aspettavamo una condanna per tutti, speravamo, però il punto che gli ergastoli a porre in genere. Vero, no. Beh, no, certo. E invece c'è stato questo quadro che ha sovvertito e che ci ha molto deluso su questo punto, certo. Come potrebbe essere diversamente? Certo, ancora note positive, noi a livello della sentenza, delle pagine ce ne sono tantissime, cioè io mi fermo al dato storico, però un piccolo, no? Poi ci sono delle piccole cose che leggendo, il fatto che nella sentenza si usa il termine terroristi, come i familiari e le vittime continuavano a dire, e che poi la sentenza dice questi sono i terroristi di Stato, no? È quello che manca. Rispetto poi come tutto l'orrore, come diceva Mirta, che gronda il dolore, cioè tutto quanto c'è nella sentenza, questo c'è, questo sì, però noi quello su cui dobbiamo concentrarci adesso e subito, la sentenza non è definitiva, la sentenza, l'appello serve a questo, serve a correggere i punti che non ci sono, che non sono chiari, e noi abbiamo questo dovere. Non sono d'accordo su questo, sulla sentenza, dal punto di vista giuridico, perché secondo me ci sono gli elementi anche psicologici, loro entrano molto nella consapevolezza, no? Del sequestratore, il quale dice sì, questi sequestravano, torturavano, ma non avevano il dolo, no? La premeditazione di ammazzare, secondo loro. Secondo noi no, cioè io vi dico solo, adesso non scendiamo nel particolare, però la vicenda che riguarda Gatti, scusate, ma voglio dire, lì c'è addirittura la trattativa, c'è una trattativa su cui gli intermedi intraprendono di loro iniziativa, cioè sapendo che poi sarebbe andata male, perché poi tutte le testimonianze sono in questo senso, nel senso che questo era già morto prima di fare la trattativa e durante la trattativa, e poi lo uccidono, poi lì siamo quasi alla fine, lo vedono 20 persone Gerardo Gatti. Poi non entriamo, però già la vicenda Gatti già stride molto su questa interpretazione, come tante altre. Io mi fermo su questa e sull'appello noi come parti civili, come l'avvocato dello Stato e soprattutto come la pubblica accusa, adesso dobbiamo dare una mano per costruire una nuova vicenda giudiziaria che dovrà correggere su questo punto la visione del primo giudice. Sulle nuove prove, naturalmente, se ce ne saranno, Mirta, insomma, noi cercheremo con fatica, perché è difficile far entrare nuove prove a meno che non siano state non disponibili, da un lato, e dall'altro che non siano state disponibili nel momento in cui si celebrava il processo di primo grado, e poi secondo punto, che devono essere rilevanti, rilevanti o decisive per il processo. Naturalmente noi ci aspettiamo, se ci arriva qualcosa da voi naturalmente la valorizzeremo, ma sappiamo le vostre difficoltà, sappiamo la vostra sofferenza, e su questo vi siamo non vicini ma vicinissimi, e poi entreremo nel merito per una nuova valutazione e cercheremo di fargliela fare alla Corte d'Assise d'Appello. Vi ringrazio tutti. Allora, io ringrazio Cesare Rinaldi che ci ha aiutato a organizzare questo evento, perché io non c'ero, ero all'estero, e l'ha organizzato tutto Cesare, che ringrazio per questo lavoro. Io volevo dire che questo processo, quando è iniziato ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, ovvero per un delitto politico commesso all'estero contro un cittadino italiano. E per quello adesso vorrei dare la parola a Francesca Lesa, che è una cittadina italiana che sta all'estero e che è stata minacciata di morte, cosa che in Italia è un delitto è stata minacciata di morte per questi fatti, per le sue ricerche, per cui è un delitto politico commesso all'estero contro un cittadino italiano. E volevo chiedere a Francesca se aveva avuto, a cui cerchiamo di essere vicino, se aveva avuto modo di leggere la sentenza, e che lei ha seguito anche il processo Condor argentino, che paragone ci può fare tra questi due procedimenti. Sì, buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare la Onlus 24 di marzo e anche la Fondazione Basso per il vostro invito a partecipare in questo evento molto importante. E, come diceva Nadia, anch'io sono un po' un'infiltrata, diciamo, perché non sono né un avvocato né una giurista. Io sono una ricercatrice di relazioni internazionali, quindi diciamo i miei commenti, le mie riflessioni questa sera saranno da quel punto di vista, un punto di vista della giustizia transizionale, e soprattutto cercare di comprendere questa sentenza del processo Condor di Roma da questa prospettiva appunto della giustizia internazionale, della politica internazionale. In realtà volevo iniziare. Ringrazio Francesca, a cui l'unica cosa che possiamo fare dall'Italia è quella di darle la parola e invitarla anche via Skype in altri dibattiti. E quello che volevo, adesso ci sono iscritti due giuristi democratici per dare le loro opinioni. C'era la professoressa Campisi che ha ancora qualcosa da dire, e anche Fabio Marcelli. Non so chi vuole intervenire per primo. Prego. Allora, al microfono di qui, Fabio. Non ho letto qui le motivazioni di questa sentenza, perché l'ho ricevuta un paio di giorni fa, non l'ho fatta in tempo. Insomma, dopo tutte le recensioni entusiastiche che ho sentito qui, sicuramente la leggerò, no? Parte con... penso però, mi pare di capire che un punto debolissimo di questa sentenza, nella parte diciamo così negativa, sia la prospettazione del dolo eventuale, che poi viene fatta per dire che comunque sarebbe prescritto. Comunque vabbè, tutto da approfondire, però alcune considerazioni di carattere generale molto... ma ha maggior ragione, insomma, come si fa? Alcune considerazioni generali su questo. Prima, è vero che ci sono delle inadempienze, come ricordava Maria Chiara? Maria Chiara, da parte dello Stato italiano, nel adeguare l'ordinamento a fondamentali convenzioni internazionali in materia di tortura, beh, sappiamo qualcosa anche più da posti più vicini a questo, ma insomma, la sparizione forzata, eccetera. Poi è anche vero che questi sono crimini, come ricordava lei prima, sono crimini internazionali riconosciuti come tali anche dal diritto consuetudinario internazionale. Quindi dello Stato fanno parte anche i giudici, anche gli avvocati dello Stato, peraltro anche i cittadini. Quindi è bene che questo fatto sia in qualche modo tenuto presente anche da qualsiasi giurisdizione si abbia a pronunciare su queste cose, cioè che questi crimini internazionali, anche perché la sparizione di per sé, adesso non lo so se uno degli elementi è quello che mancano i corpi, tra parentesi, non so se avete ricordato. No, vabbè, questo no. Però insomma, la ratio crimini, se non ha fatto la sparizione, è il fatto che si può far sparire il corpo, quindi può tornare utile anche la giurisprudenza ormai antica in materia di sequestri di persone a scopo di lucro, che ricordava l'avvocato dello Stato. Ma poi questi sono personaggi, pensiamo a Troccoli, che sono delle rotelle in ingranaggi più ampi, quindi è inconcepibile che questi non avessero cognizione della finalità, se ce l'avevano i loro capi, a maggior ragione dovevano essere loro che erano delle rotelle dell'ingranaggio, cioè che svolgevano una funzione subordinata ma nell'ambito di un meccanismo che era finalizzato nel suo complesso a produrre un certo risultato. Poi vabbè, su tutti i principi, anche il diritto internazionale, sul fatto che l'obbedienza non esime ovviamente chi obbedisce dal crimine internazionale, vabbè, comunque tutte cose che viene ribadito, però poi lo assolvo, bisogna capire perché lo so. Comunque vabbè, tutte cose dobbiamo... ripeto, non ho letto la sentenza, quindi faccio delle considerazioni di carattere ipotetico, che però mi riprometto anche di sviluppare in forma il più possibile, tra virgolette, come sedicente giurista scientifica, sia sul mio blog del Fatto Quotidiano, anche che magari in qualche sede più paludata, perché secondo me, come diceva giustamente la compagna che è intervenuta dall'Argentina, mi pare da ultimo, il problema è riempire questo bicchiere, perché finché il bicchiere sarà mezzo vuoto non riuscirà a soddisfare appieno la nostra sede di giustizia. Volevo ricordare che, siccome molte delle persone che seguono e collaborano con questo processo non sono state invitate, dopo che mi ha sgridato l'ambasciatore Ayala, ho telefonato subito a Luis Sanchez dell'ambasciata della Bolivia, che si scusa ma non era stato invitato neanche lui, e anche a Gabriela Chiflet dell'ambasciata dell'Uruguay, a cui si scusa anche lei, e alla FAO non può lasciare l'impegno, ma mi ha chiesto di salutare Mirta Gianzi. Nulla, l'ultimo intervento di Maria Chiara Campisi, e non so se ci sono domande dal pubblico o altri interventi. Grazie, no, era solo un diritto di replica che mi arrogo dopo le... Utilizzo questo. sì. L'argomentazione dell'avvocato greco è un'argomentazione che viene tradizionalmente utilizzata, il fatto che il nostro ordinamento già abbia gli strumenti per perseguire. Secondo me due aspetti: uno, la sentenza dimostra che evidentemente questi strumenti non funzionano benissimo, perché se no non avremmo bisogno di ricorrere in appello in questo senso. Il secondo aspetto è il fatto che non vale utilizzare il fatto che il sequestro possa essere utilizzato come elemento, come base di imputazione sufficiente, secondo me no, per il problema della prescrizione, per il problema del fatto che questi reati non sono prescrivibili. Se sono crimini internazionali sono imprescrittibili. Nel nostro ordinamento invece il sequestro, a meno che non si provi la premeditazione del dolo nel caso di omicidio, ma è chiaro che qui stiamo richiedendo una prova molto più complicata che se operassimo con la categoria giusta dal mio punto di vista, che è quello della sparizione forzata. Lei dice giustamente, stiamo parlando del passato e non del futuro. Parzialmente sì, sicuramente la sentenza è questa e con questi strumenti giuridici ci troviamo a dover operare, però almeno dal mio punto di vista, quindi non da practitioner, da avvocato che lavora sul caso specifico, credo che sia utile utilizzare questi casi per fare una riflessione più ampia anche alla luce di quello che potrebbe succedere dopo e di altre e ulteriori situazioni che ci potremmo trovare ad affrontare. È già successo in molti casi con la tortura, questo è un caso di sparizione forzata, insomma credo che sia il caso di interrogarci su queste cose. E da ultimo, da internazionalista, c'è anche un livello di responsabilità internazionale per violazione di obbligo internazionale, cioè il nostro paese ha un obbligo internazionale al quale dovrebbe adempiere, al di là poi del fatto che ci possano o non ci possano essere strumenti o meno adeguati. Chiudo e mi scuso per la lungaggine, ma mi sembrava importante replicare su questi punti. Noi siamo uno dei pochi paesi europei, anzi forse siamo l'unico paese europeo che ha processato questi soggetti, quindi sotto questo profilo, ecco, mi fa piacere che l'ambasciatore cileno lo riconosca, siamo l'unico paese europeo, quindi qua discutiamo attorno, ciao caro, però voglio dire, il nostro è l'unico paese europeo che ha processato, e come riconosceva prima, immediatamente prima l'intervento appunto di Francesca Lessa, è proprio questo, diceva, per fortuna quantomeno l'Italia si è mossa, noi come italiani anche tramite lo strumento che prima giustamente richiamava, siamo partiti con l'articolo 8, cioè attraverso questo stratagemma non mi risulta che ci siano stati tanti altri paesi che, voglio dire, non hanno una funzione di democrazia, un livello di democrazia inferiore al nostro, che si siano mossi insieme e come noi, perché credo che se anche gli altri paesi si fossero mossi come insieme come noi, forse tanti problemi che tu giustamente ritieni sarebbero stati sotto certi profili superati o quantomeno agevolati. L'ambasciatore Fernando Ayala. Su questo microfono che si sente bene. Soltanto vorrei dire che quando si parla, come hanno parlato oggi, di che questa è la prima volta nell'storia dell'America Latina che un tribunale ha fatto un riconoscimento senza nessuna dubita dell'esistenza del Plan Condor, e grazie che si è fatto qui in Italia, perché nessun altro paese lo ha fatto, né la Francia, né l'Inghilterra, né la Spagna, nessuno. Per quello penso che ha molta ragione, sicuramente nessuna cosa è perfetta quando si fanno queste cose che sono terribilmente dolorose. Ma l'Italia ha il merito di aver stato il paese dove si è fatto il giudizio storico di condanna ai capi di stati del Sud America. Grazie. E con questo concludiamo l'incontro. Grazie a Francesca, grazie a Mirta. Mirta, chiedete Siralgo? è mancata la luce a Montevideo, per cui sta solo col cellulare Mirta. Ringrazio a tutti, interessante. Ciao, ciao Francesca. Ciao, grazie.